avete tre oggetti a disposizione: scudo di ferro e rame, mantello di gomma, vela bagnata di acqua salata. Quale di questi non fa passare la corrente elettrica?